100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Roberto Napoletano. Perché 100 secondi di Radio 24? Perché incontro ancora troppe persone, amici, che mi dicono: non capisco niente di economia, non è possibile, perché l'economia si occupa di noi da mattina a sera. Tutti noi ce ne accorgiamo a pranzo, a casa, in famiglia, a cena, quando facciamo i conti, quando constatiamo che il nostro figlio non ha trovato lavoro o, cosa più amara, siamo costretti a scoprire che qualcuno di noi ha perso il lavoro. Non credo che l'economia sia una scienza triste. Ho detto tante volte che i numeri hanno un cuore, un'anima. È importante sapere che se l'inflazione è troppo alta è brutta, se è troppo bassa è bruttissima. Quella giusta assomiglia alla minestra di riccioli d'oro, né troppo calda né troppo fredda. È importante capire perché un paese cresce e uno non cresce, perché aumentano i disoccupati in Italia. Don Abbondio avrebbe detto: che cos'è questo spread? Oggi penso siano in pochi a non sapere che cos'è lo spread. L'economia può e deve essere un ponte tra i numeri e le passioni, le tante passioni che segnano la vita di un uomo e di una donna. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Salvatore Padula. La riforma del catasto si mette in moto. Oggi il governo approverà il decreto che istituisce le commissioni che dovranno fissare le nuove tariffe catastali, cioè i valori sui quali saranno poi calcolate tutte le imposte degli immobili. Il tema è importante, molto importante, perché ogni anno i proprietari di case e di altri immobili pagano al fisco la cifra record di 50 miliardi di euro di tasse. È un'operazione, quella della riforma del catasto, che ha come obiettivo quello di azzerare le ingiustizie che l'attuale sistema delle rendite catastali ha reso sempre più evidenti. Il risultato, come sappiamo, è che spesso le tasse finiscono per colpire un po' a caso e non sulla base dell'effettivo valore degli immobili. Il percorso per arrivare al nuovo catasto non sarà brevissimo e richiederà probabilmente 3, forse anche 4 anni, ma la posta in gioco è davvero alta, quindi conviene fare molta attenzione fin da subito, soprattutto perché la revisione delle rendite porterà sicuramente a tariffe catastali molto più elevate rispetto a oggi. Quindi la riforma del catasto dice che tutta l'operazione dovrà essere fatta a invarianza di gettito, cioè senza aumentare le tasse. Ma sarà vero? Questa invarianza di gettito sarà reale? E chi controllerà per evitare aumenti? Insomma, il rischio è che la riforma del catasto possa portare un aumento delle tasse, ed è un rischio dietro l'altro. Ma attenzione, perché 50 miliardi di tasse sono già uno sproposito. Vediamo di non preparare il terreno per un nuovo pericolosissimo record.